dici? Ciao Natalino. Che avanti. E io buonasera. Hai sentito saluto lì? Ciao Antonio, buonasera. E cosa stai combinando? Sì, me ne sono alzato adesso. Mi ha acceso il computer. E il baracchino. Meglio così, è fatto bene. Non è entrato nessuno ancora, solo noi due ci siamo. Non ho sentito nessun altro, stavo accendendo neanche 5 minuti fa ho acceso la verità. Si sentono altre voci. In televisione della camera da letto, sì. Non si capisce un cavolo di quello che dici. Aspetta, non sei tanto a verificare questa cosa. Aspetta che la abbasso. Adesso va meglio, guarda un po'. Eia. C'è la manetta, il microfono, MP5. Capito? E quello è sensibile. Bene, modificato. Io ho staccato la capsula che c'era dentro e gliel'ho messo un'altra io. E per quello che sale, come si chiama? Il modulo metto, prima non saliva. E ha giù capito. Ma tu stavi mettendo la portante, Antonio. Il PC con la seta sta così. Sono veramente da seta. Gli accaiti. E beh, ci ammazzo, tirano in puntata voi. Papa di positivo, tutto a posto. Sì, doc, anche a me me l'hanno cambiato, a tutti lo stanno cambiare, Papa. Vabbè, la da fare, Natali, che cosa fa di? Andava, e no, che se prendeva, lì da te non lo so come sono le condizioni, se sono buone o meno. Non si intendi, no, se tu te vai no, chi è? Hai ragione, non si intende avvio, per carità. Vai, Antonè. Mi sa che ci vediamo la mattina di macchina, cazzo, andiamo a pescare stanotte, quella come sto facendo, facciamo due litri, un magnete e cominciamo a mangiare il gappescio. Mi sa che il pesce non viene più. Avanti. Allora. Beh, siamo mancati, già comparato. Ciao Antu, buonasera. Buonasera anche a lei. Ciao Antu, ben sentito. Vedi dove studiare il pesce al mercato, sono stanotte nel suo mercato civico, un vuoto. Questo regalo del pesce quando passi lì. Sì, hanno mancato di rubescio, sei andato. Il giornale allora, si è svegliato di un vuoto, nel mercato civico, cazzo. Non ci stava più manco un cane a prendere la palamagna. Tu io, per carità, riprendi Natali. Figlia, mi sa che dovevi mandare con l'utente media a pigliare un pesce aromaccato, solo chi sa le cavona. Pesca di bambino, vivo. Da dentro, buoni. Con scarta, butti e prendi, eh. Altro bene, mi ascolti? Kappa kappa, andare. Mi pare che... quando papà voglia mi conosci anche da Montano, ma da Montano Maglia abbiamo cercato il pesce, perché prima tu stavo lì con la zona. Sono accaduto del rubescio. Io vado sempre lì a prenderla adesso. È un bel buono veramente, anche le pizze. Quello proprio dura anche un giorno, due giorni. Quello di Arrosello l'ho preso io un'altra volta, tu. Buono, eh? Sì, anche le pizzette fa buone, le papascine, tutto fa. Sì. Non è detto a Natalino quando deve prendere il pane e andare lì. Che lì è vicino a casa lui, a Natalino. E lo fate con avvero Rubani, su, eh. Non è... Sì, l'ha preso mio moglie. E beh, com'è? Non è buono. Sì, mi pare. Si sente la televisione, non ti ho capito. Ma così molto si sente, cazzo. Boh, intendo più televisione che a te. Non lo so, a tu, così è. Mi chiede Antonio, non si sente la televisione? Non so. Vedi Natali, è un bel pian peccato sul microfono con voi. Sì, vabbè dai, ci sentiamo un altro momento. Cioè mia moglie sta guardando la televisione e non posso modulare, dai. Alle prossime, ti ascolto. Vabbè, rimane, a me fa figlio, non me li date, non è che me ne date. Se anche appena la voce non succede niente. E anche io quando accendo purtroppo questi microfoni gli arusai, no? Ne traduco. Così è Antonè, capito mi hai? Sì, ha capito zio. Sono per fare un colpo, ho sentito un fuoco, cazzo. Non so se era nel muro o sopra te. Quando sono uscito fuori avevo sentito che fosse caduto l'antenna in terra, cazzo. Sopra te. Ma domani, una volta non si è caduta la VHF, non lo so, giunto di un tocco a questa parte, solo non si vede un cazzo adesso. Ma la radio, Antonè, non mi piace, è masticata quella radio, non ho capito il perché, o hai problemi di microfono, lì, boh. No, ando bene, c'era poco fa. Io ti sento così, con le cuffie. Masticata adesso, c'è contate, boh. Adesso va bene, Antonè. Oh, non lo so, diavolo. Vabbè, non mi sto ascoltando, la verità. Quindi non so come sto uscendo. Vabbè, ok. Allora, lascia vedere una cosa. Mi no, questo lo lascio così. va bene così, chi c'ha vedi? Hai detto un attimo. Ok, così dovrebbe andare bene. Andare bene. Vai a tu. Antonio adesso sì che più basso. Tanto è che puoi pompare, no? A me quanto sto arrivando io su da te, Antonio? 1,26, Antonio è quasi 9, ma boh, se tomassi io radio. Io 9 ti arrivo. 1,20. Ah, 9,20. Antonio sicuramente c'ha problemi in antenna, anche lui. È un casino, Vabbè, adesso non posso mica controllare al buio cazzo è successo, ma l'altro lato l'ho visto che è intera ancora. Questa è cosa, è caduta la UHF, boh, si è picchiato un male, ma sembra strano, cazzo. Non so cosa dite, sicuramente magari va a entrare da Eva, boh. Ma qual è la moto va 5? La moto va turbo, sto usando, anche se l'altro giorno, già 2 settimane fa c'avevano dei problemi, quando facevamo vento, toccava il PL. Allora ho tirato la B27L, 70 euro, da Tonino, e la devo ritirare prima di fine mese, capito? Me la incasso i soldi, quando me la ritiro. Meglio se perderne una di riserva di antenna, capito? Bisogna stare sempre con questo cazzo di pulizia che abbiamo, di merda. Può capitare in qualsiasi momento che l'antenna adesso se ne va in a fanculo, c'ha più di 6 anni questa antenna qui, sopra tempo. Quindi bisogna che la scendo giù, al garage, me la pulisco bene, con coso, e gli metto il basamento d'acciaio, gli faccio i fori, e piglio la misura, gli faccio i fori e poi la ripiazzo. Tanto vado giù e la accendo, ne servono una di anni, mi sembra che mi sia messo. Non prendo la bricco mentre devo ripiazzo, quindi cambio anche il cavo centrale dal PL alla bobina, come avevo fatto con quella vecchia che poi ho dato a Stefano. La grazione. No, non lo voglio spendere tanto di quei soldi, non ne vale la pena, lascia perdere. Vesco guarda, mangiarmeli che 150 euro. Ne spendo 70, la metà, non devo mica usare 1000 watt, non me ne frega niente, capito? Usate era 2 mesi fa, ho usato 800 per mettere a posto il tino e basta. Quindi non mi interessa, mi va bene la B27L, la tengo di riserva, pesa mezzo chilo, non devo stare a chiedere aiuto a nessuno per tirarla su. E per me salire sopra il tetto per me è un pericolo, capito? Ho avuto problemi al braccio e non riesco a sollevare più di tanto, capito? E quindi ho avuto un trauma e non posso fare nulla. Quindi non posso usare uno, devo usare l'altro il braccio, quindi per poterla salire, mettercela sopra il palo. Metti, va bene, per anni non la tocchi più, perché è fatta bene. Vabbè, ma è pesa, il discorso è questo, l'antenna pesa, cazzo. Non c'ho più l'età di 20 anni per poter sollevare un palo da 4-5 metri con la mano da sopra, capito? Prima ce la piazzavo da solo alla mantova, fino alla volta. Mantova turbo, mantova 5, mantova 1, sai quante volte andavo da solo, la piazzavo da solo. Adesso da quando ho fatto quel cazzo di vaccino mi sono rovinato il braccio. C'ho problemi al braccio, capito? Ha perso, come si chiama? La muscolatura ha perso, capito? E riesco solo a sollevarlo appena appena. L'unica cosa che posso portare è pesi tenendolo in basso, solo così poi riesco a fare qualche cosa. L'altra volta ho preso le batterie della, già riconosci, penso, quelle agelle da 30 ampere dello scooter che ho preso e cazzo, ma tanto 4 giorni a dolore al braccio sono stato, come se me l'avessero quasi staccato. Figurati. Addirittura. Ad addirittura, a me il vaccino mi ha pigliato al braccio, mi ha pigliato, non mi ha fatto la puntura, mi ha crepato lì. E se lo chiedo, parecchia gente ha fatto lo stesso difetto a me, non è solo a me. Se non aver fatto il vaccino sarei stato bello tranquillo ancora. Adesso ormai, a me mi ha fregato così, ho 60 anni, non devo subire. So che le mie, un sacco di gente mi ha dato quei problemi, non riesce più a lavorare, non riesce più a alzarsi dal letto a volte, c'è gente che le gambe non se ne sente più. Di certo non mi faccio la quarta dose, questo è poco, ma sicuro, se la possono prendere in culo, preferisco crepare e fare la quarta dose. Vabbè, c'è anche la Lio Bernardo, c'è, se per questo, costa 110 euro, viene con la spedizione, ed è molto più leggera della Grazioli, è lunga 7 metri di stile e 7 metri di radiali, capito? Me l'avevo presa, solo che il problema è che non voglio spendere più di quel tanto, il discorso è quello. È una bella antenna di colore verde, insomma, basta che controlli su eBay, c'è 7 metri di stile e 7 metri di radiale, ce ne sono 4, ma 7 metri di uno, aspetta le foto. Ma è facile, la di piazza Giovizia, perché quella che c'aveva per tutta la Caddadeva, per carità. Era buona, funzionava bene, però c'era cioè, come di stazionari. Sei buon turista. Ma tu? Ci hai messo quella lì, ci hai messo. Ma dove master ci ho messo? Già va bene. E la Giovizia funziona, quel stazionario non è ho. La Puglia. Allora, cosa sai, Ivi? E la va dura cuscia che non faccio più in altra capizzuglia. Se sta tanto anda, tanto quando non anda, ti la indietro. Fra, se lei il sistema fa bene, non dovrebbe avere problemi. No, io ho fatto un bel lavoro, tutta vulcanizzata, fatta bene, già va bene. Poi stazionare non ha più nulla. Che mi ha fatto, che mi ha espanso, già rimane così. Ho visto che quel vento che ha fatto non gli ha fatto niente. Tante piazza d'avere, flette, perché flette col vento, pare una canna a pesca, però cosa mi ha futtiato d'avere? Cosa andava bene? Quella là era, a parte questa qua è 7 metri di lunghezza. Sì, vabbè, e più ci sono altri 3 metri, sono 10 metri d'altezza, più l'altezza dove abito io, a Puglia che andava bene. A Puglia sì. Come ci arrivo io? 9:20, radio 5. Ma neanche tanto forte. Arrivi bene, dai, 9:25 modulati. E io quanto sto arrivando lì da te? 5:30. Andava bene. Vabbè, forse c'hai problemi sull'antenna tu. Io c'ho una pumba da sul balcone. Se non sei un'altra abitudine è stato diverso. Sì, ma comunque c'è bene quella pumba anche. Va bene. Ancora da te quanto arriva? Antone. E dove ce l'ho va benissimo. Dentro non so come ti candela per salire tu vuoi andare da un'altra abitudine. E da Giacciari ci arrivi vero a Tessi, non verranno i problemi. Sì, guarda a Fondoscala, è una bella zona quella lì. E vabbè, anche piano piano già si sistema, dai, cosa di una fuga. L'importante è risolvere. È lì, spara più forte da lì. Ma anche da qua, con l'antenna va bene, esci bene. Perlomeno qua io ti ascolto benissimo. Ciao. Cava. coglioni. Andare. È stato un peccato quella morto partita, già detto, ti ricordo. Arturo, è già fatto che mi sono incazzato. Ma cosa si è rotto il palo? Non è altro da fare problemi alla gabitura, non è cacciato lo filo qualche bastardo, capito? E mi ha spaccato tutto su. Allora io mi sono cacciato e ne laggiù, laggiù fatto a pizzi, perché aveva piegato il tubo il vento, lui non voleva, l'aveva bigiato. E se non tirano il bigiato che ha tagliato lo coso, lo filo? Era un filo da rubiere e ne è cacciato, infatti io non so come era bizzata, che c'era una pesce. E riuscendo con un filo e buco. E infatti. Gente di merda. Da tutte le parti li trovi qui. Tanto se non era abitato da prima, la piace ai bizzato, E infatti. Niente, bisogna sciganire i rimane ai saglienti. Ma lui veramente, cata, proprio dei pizzi di merda, hai detto bene. Per carità, cazzo, non hai compreso che l'ha fatto. No, ma tu, perché me ne sono accorto dopo di due mesi, perché io stavo continuando a uscire col fico al capo attaccato all'antenna, capito? E non è avvero un rosmetro, quindi come ti basi a vitamine? Sono uscito lo stesso, ha detto, ma vuol dire funzionando bene. Un bel giorno ho dato a Bruga Ciccia, ha subito la lancetta, si è cotto a Rosmuth, si è cotto a fondo a scala, è tornato in da lì. Ha detto, no, che aveva problemi, andate a controllare, lo destra, l'antenna partita. Salgo su e c'era il filo spaccato, il filo rotto. Tirato, stracciato proprio dal PL, capito? Quindi automaticamente come hanno tirato, ne hanno stracciato il campo proprio. Sì, qualche pezzo di merda. Non è che col vento ne è stato. No, ho cominciato di là da mano. L'R213, ma buffonendici. Sì. Stracciato dal PL proprio a tiratura. Infatti la ghiera è rimasta attaccata all'antenna, capito? Come ha tirato, c'era, ha spaccato addirittura anche la femmina che agganci sull'antenna. L'aveva già avuto purtroppo esistono anche queste persone, capito? E beh, non hai domandato, mi hai imparato, se ne hai domandato, era domandato, io lo vedi nuda in occhi, gli occhi non vedi nuda quando piazza etica, quando ho piazza etica e vedi di tutto bene, nuovo è visto. No, non ne hanno messo antenna, no. Non hanno messo nulla, hanno sistemato le tegole, quattro tegole, poi perché questa di sopra c'era rotta, c'era problemi sul soffitto che entrava acqua, e quindi hanno fatto lavori, capito? E non è cazzato un virus mio. E allora l'abbiamo detto cara che ti ha fatto un travaglio. Infatti gliel'ho detto, non me l'ha detto che. No, allora detto, se non me lo dico non vai tirare le pensioni. E vai a bisticciare sempre, la biglia in culo, mi interessa. Adesso già è tutto a posto, già funziona tutto bene, non disturbo, per cui non me ne frega niente altro. L'importante è quello. Vai Natali. Sì, infatti, a me tutto questo rimane fatto bassa e non puoi fare nulla. Per fare nulla, allora, che da voi ti rovini, gatto, se buone mani in alto, da voi è un calcino. Se quando vuoi tre cose ti rubate nel burubagà, va buono. Non mi cavo picchi, prima sai chi è, ma poi era andato, con una piccola cosa l'avevi fregato, tu sai a fare la macchina. Chi c'è un BL che mi hai attaccato? Sai che va bene così, per carità, è a Natale non vado nella nevata, uia, filo rotto, il chiodo, ti ricordi Natale? Sì, uia, uia, mi ammento, uia. Un pezzo di merda che non si rubare un ciaffo, vabbè, che ce l'ho con un ciaffo se la tribuni. E quando vuoi che te la nevata? Se mi hanno sabotato pure l'antenna della televisione, a me non sono d'altro. Mi raggiungo da comparare nuovo, fammi dirla a Franco. È vero, sì. Che te ne puoi non ne avrebbero più guardato. Ma vedi che se vogliono ti rovinano. Non vedi che da me è venuta anche la polizia qualcosa, con le scorradio. O non hai compreso nulla tu, che mi vogliono arruinare. Thank you. rovinare. E infatti già mi hanno messo la multa, mi hanno sequestrato tutto quello che mi dovevano sequestrare e via, hai capito? E c'è da prenderli e creparli questa gente. Perché sono affari che non li capa paura. No, non vi credi, no. La buona è chiaro, ma quando mi ci dia il coglione a me, sono peggio, peggio del peggio. Sì, io lo so, tutti siamo così. Se ti parli di che cosa fai tutta da arrabbiarci. Io pensavo i pirati dopo finito, ai salienti. Non vedi che da poco io ho avuto due operazioni per colpa di questi stronzi. Siamo bambini a respirare, ma forse vanno. Stanno davvero parole. Ma come ti sei spaccato? Hai fasciato questo. Vuoi ripetere, non sono certo da che pensare. Guarda, vedi quando sono calmo, se mi rompi le scatole io finisco di parlare, ogni tanto parlavo un mondo di facciato, via! Io posso tanto, non è che fa mezzo assai, no? E infatti, se a me mi tocca l'antenna va come se puccia, io pure posso danno, ma danno voce però. A Edu e a tutta la roba è possibile. A che Edu lo mando le posso fare 6 mesi di pilari, salvo complicazioni. Che cosa? Guarda che ti posso danno appena se posso, no? No, intendi no. Se a me mi toccano qualcosa, mi ho dovuto comprarmi l'antenna della TV, l'ho messa sotto il palo del baracchino, così la mia è boh. Praticamente io ero nell'altro palazzo, nell'antenna dell'altro palazzo, beh, mani dagli adrugavo, diceva sì, cazzo di salto, cazzo mani vado, e non vedo più la televisione, hai capito? E me l'ho dovuta comprare nuova, mi piace Franco testimone qua, e l'ho piazzata sotto l'antenna del baracchino, così è nel mio palazzo, il primo che mi fa danno è Fuzzito, non me ne frega un cazzo, questa volta agisco. Devo dire che si diverti a capodanno, non c'è la guardia l'antenna della TV. Sì, ma io mi abbiglio con Reddu, io mi abbiglio manico di bicco e abbiglio un dronchi in alto, hai capito? In modo che non si muovia più. In galera lo stesso. Beh, sei con un piccolo la mamma è seconda, quindi devi divertire così, però che no, però che ci pensa molto fatica. Se può fare, tu gli dai a gamba bene, come scende. Però che non lo tocca più. La prossima volta che trovo una danneggiata, vediamo, Edu non lo usa ne manco, qui rubito dalla Redu proprio, Edu non se ne avvisa ne manco che articolato ne le farà di naso. Io la matta va bene, vuoi vedere cosa hai fatto? Mi gridi Edu, cazzo, chi la usa, se mi tocca ne poco poco a che cosa? Tutto il vicinato non vede più la televisione e buscano pure. Più forte pigliano. Sabbo di lì, no, si intende, no. Ah no, non vengo nulla. E non si intende nulla. Nei primi 6 mesi a tribati mi rifidarimi. Se mi tocca nega che cosa, io dico, è meglio che rimani se ne tenga la fuccia, che se no la buri so butta la tappa lui e rimani. Beh, anche per saglio, ma capolanno, non ha giudicato in prigione, ma fai Dio, se mi arresta ne mi arresta nei concuri, allora manco l'ha già fatto danno, boh, sì. certo, mi do ma ne godi mico gatta per non chi nato. Cazzo sai bongo. Sta controllando tutto, Micio, sempre. Cosa con la torcia, nella scala. L'agaro controllare, cosa cazzo? Ma noi però. Ehi, e me. L'agaro controllare. Sa cosa sta fa controllare? A futere, l'agaro controllare. L'importante che non fosse ad anno. A chi se no. Mi guarda. Se no bucavo. Sì, ma perché? E c'è, aspetta. Andiamo bene, andiamo. Così andiamo tu. Poi ti contromenti, è un casino. A tabellaria alla grazia e mai. Cosa è successo? Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Donino, buonasera Donino. A quella drummidosia. No, a me sono accesava, sì, dicevo, andare in incazzato, cosa è successo? Hai detto mi eri dormito, perché dalla voce ci direbbe che eri dormito. No, ero sdraiato guardando la televisione. Sono più palle, me. Dove? Da Natalino? E cioè, lo vedi parti vuoi, non torna? No, no, è curabile. E controllando curabile che si acciappava manzetti tra i bursari, Doni. Si acciappava? Si acciappava la monza dentro il bastone, o con cui, che cosa dice? Con tutte le vaghe ha fatto, la gioca annegata. Ogni tanto viene una che sappia di Natalino, che beh. Ma com'è ciò che campagna io? Che andavo a pensare con chi sa Roma, finire di tutta, a fare la scuola di tutto. Ha detto per il Murveo che c'è andato alle scepitette. E la via dei corsi non andava a pubblicato. La via dei corsi era del primo ogni attaccato. E si dico che è troppo silenzio, e che è troppo brutto. Perché è una via particolare quella lì. È un bel trafficata. No, ma ho visto di sotto. Forse no, che chi è una cosa privata, capito? Andrà bene, no, che mi sempre domenica, tutto silenzio, tutta una luce, non si comprende nulla. Mamma mia, per carità. Oh, mi sa che stasera mi posso riso in salata, ho tutto gli ingredienti. Ma poi c'è l'autonomia, è bello, la commissione è bene, sta funzionando. Che cosa, va? Il frigo bene, sta andando. Cappa, perfetto. Meno male, dai. Sì, l'abbiamo sistemato. Ma che mattino da poco di Tarno è stato qua sotto, uguale al tuo, uguale a quello che c'era Alex Tomo, chiami. Asco, a proposito, il cruciatore cucina, contraccomando, non fa più pi e poi non scaldo un cacchio. Il condizionatore c'è in casa e cucina io. Non scalda e col telecomando non fa più come prima, pi quando si accende, capito? Aumentavo di minuvi la temperatura. E poi è che scarico di gas, Tony. E beh, cosa c'entra il cicalino che deve fare? Sì, arriva le batterie carichi. Sono buone le batterie. Ma no, se scarico non parte, capito? Non funziona né aria calda né aria fredda, perché non chiude il pressor stato che c'è all'interno. E qui ci vuole gas. Vediamo vedere che tipo di gas è quello lì. Ariello, questo è uno dei nuovi. È uno dei nuovi, bisogna vedere se è 134, 404, 132. Ne fate un bel modello di freno. Non lo so. E da cosa si può dedurre che numero è? Guarda, c'è una targhetta attaccata al motore, all'unità. Nell'unità c'è la targhetta e ti dice la quantità e ti dice anche che tipo di freno ci va. Ma dell'unità esterna? La esterna, chi sa il livello motore, quella che c'è scuri. Ehi, cazzo. Allora, innanzitutto sta piovendo, prima base. Seconda base non ce l'ho, non posso uscire fuori, ma devo fare tutto il giro del palazzo perché io ho chiuso con i blocchetti la porticina che c'era, perché non loro volevano, mi hanno chiuso la finestra per la privacy, ho chiuso la porta per la privacy. Allora so cosa dici, lì c'è la targhetta, intanto se scarico devi caricare dall'unità che c'è fuori, capito? Non è troppo di fare nulla. Sì, chiedo permesso, non c'è problema, capito? Vabbè, dai, più là lo facciamo. Non c'è problema. Guarda che gas c'è. E io. E allora, Natalici, sì. Io, ciao Tony. Ciao Natalici, dimmi cosa c'è. Lana, cosa c'è? Beh, stavamo discutendo. No, dici che era qualche babauccio che c'era a rompere le balle. Non penso che li convenga venire a rompermi le balle a nessuno. A chi sa usa c'è il bideggio. Dopo. e no, che è troppo silenzio e chi è troppo casino. No, da vecchi no. Ma ero in campagna io, non mi rompeva le balle nessuno. Pensa tu, c'è la Mantova 5, nuova, mi. 2 mesi c'aveva quell'antenna quando me ne sono andato, la campagna, e se ne sta ridendo. Ma c'è una purvratica, a chi in chi vi la salsedine del mare me la marciva le antenne, uno o due ne ho cambiato, scherzo. Una volta una BA27L mi si è marcito il bocchettone dell'antenna e me ne farà drugare in terra. Ora si sia ancora buono. Samantova 5, un vetro di zanno in chivi, sembra un parlo da 12 metri. Cos'è che hai detto, bra? Ho detto magari funziona a burro. Ha già detto che era decente gioca, ha visto, non buttare Natalino. Natalino, tu te che gioca vai, me lo puoi dire. Che cazzo, se mi vivi la gioca me ne accoglio io. Me ne sono niente curioso, ma per carità, va, ma veramente. E se controllo il caffè esci. Me. Allora ci avete venire la gara pure a me. Io mi trovo la caffettiera e me ne sono per mettere il gatto, esci. No, non sarà, ma... Allora sarà già bello che è tutta una taraguzina. Ma pure la gomma della caffettiera si sarà incendiata. Secondo quanto l'hai da caddo. Ma poco fa, adesso controllo. Vabbè che era minimo, non è che era alto. Vai corrente, c'era tu il caffè, non trovi con la cannuccia dalla taraguzina. Ora devi tornare fa. Sei Viboni a bruciarsi la guarnizione, burro. Si ruda chi in antarufungo. Ebbene, che senza però di dubbio. Che voglia io. Ma io sono contento, perché oggi è venuto il corriere, si è preso le gomme, si è trapportati, come reso. Adesso è venuto a pure. Mi ha telefonato a Milano, tutto a posto. Alla traghetta le mando i soldi. Vabbè, sul mio conto. Infa. Le canne da pesca se ne stanno ridendo qua, non so come dove andavo, una voce, non mi sono andato. Ma tu il contempo, Natali, cosa vuoi fare? Ho vetro muovendo, è troppo eva, boh. Infatti, ho chi non mi sono mandati. Cazzo, oggi mi sono messo a camminare, perché dovevo fare delle commissioni. Cazzo, ne sono tornato che mi faceva male il femore. Deve essere l'umidità, mi. Ma domani torna Eva e dopodomani è bello la tariffa. Tanto il male che c'è Eva. Ma cosa vuoi ti dire, Adoni? La parola di 15 devo andare a fare un altro esame. A Plaza Mona devo andare. Ah, ho capito. Dove c'è quel centro? Sì. Meno male che l'ho trovato l'appuntamento, cavolo. Perché è una cosa urgente che la deve vedere il chirurgo vascolare. E io devo chiamare di nuovo il gruppo se mi trova qualche altro giorno libero, mese, perché ho l'appuntamento addirittura il 15 di gennaio. Questo da ottobre che avevo chiamato, adesso chiamo questi giorni se c'è un posto che si è liberato molto prima. E ogni anno devi telefonare finché non lo trovi, magari qualcuno rinuncia e ti mette, lo danno a te, come hanno fatto a me, capito? Là? Devi telefonare ogni anno, non ti inizia a ca, ma che se no l'appuntamento la ciappi chi sa quando. E sì, la ciappi in sassa di burro, bisogna vedere. Io ce l'ho prenotato per il 15 gennaio, e vabbè, me lo blocchi così, poi, giustamente se lo trovo prima, parliamo con il 15 gennaio, sì, domani chiamo di nuovo Natali. E ciao, Madonia, che è un casino, un dice esame, non vedi, non ha ne buccio di nulla. Cazzo, quello del chirurgo vascolare l'ho trovato, deve essere perché ha rinunciato qualcuno e l'hanno dato a me, giustamente. La giovata, la visita, la devo fare, il terzo esame, vi lo devo buttare a questo chirurgo, lo telefoneggio, mi ha dato il numero di un cellulare. Io sono un cardiologo, visita cardiologica. La ruso che io, capitina, so come dice, si intende. Lo so, sono problemi, sono questi esami. Prova a telefonare a Marungiu che te lo fa, che è convenzionato il cardiologo. Sì, io dico questo, che anche un amico mio me l'ha detto, ma cazzo vai da specialista, paghi, ma se io sono esente a chi viaggio la bandina, centinaia di euro, ma non fornisco che mi rimane un pochino. Ehi, Arusò, che paghi se ti aggiungi il telefono a Marungiu, che è convenzionato lui, non paghi un cacchio. E te lo dà lui stesso l'appuntamento, capito? Invece di passare per il CUP, perché sennò per il CUP diventi matto. Garecchio Maroccio, numero, boh. Già re, Nilo Ugosu, cerca nel computer dottor Marungiu, cardiologo. Anche qui mi interessa per la visita, che cacchio, non quello che passa che c'hanno e sono butto a capo qua. Cuori che sono attimi a Verzecco, di Marungiu. Ehi, e cioè, beh, lo frate di dottor Marungiu, in chi è lo figliolo di dottor Iba? In chi mi dice, sono bravi, so. Non è quello che invia via. È proprio visto, L'ultima visita l'avevo fatto in chi mi l'ha fatto il figliolo di dottor Iba e dottor Marungiu, e da voi il referto me l'aveva fatto il dottor Giraudo, visto che ha imparato da tutti i cardiologi. Figurati. Ma è un gruppo, mi pare che era molto due. Eia. Addirittura il fratello di dottor Marungiu ci lavora lì. Ed è cardiologo anche lui. E quello lì era a scuola con me, figurati un pochettino. No, già sono bravi, sono mensuati, li fate in un bebè. Infatti. Adesso infatti forse la devo fare anch'io, il telefono mi faccio l'appuntamento, tanto loro hanno tutto nel computer, ci hanno, e sanno già, non puoi più nulla, vanno in tutti, mi dico il nome, il cognome e devo già fare tutto. Mi posso fare l'eco color doppio, il cardio, e più mi faccio fare la visita cardiologica. Perché intanto senza l'eco Doppler non mi aiuta neanche. Allora, vogliamo, ho visto qua al centro la Plaza Mone, dove è bello, minchia, non ho detto che è grande adesso. È grande, sì, io gli eco Doppler li faccio tutti lì, tranne quello cardiologico, faccio tutti lì. Li faccio. Dici che non va bene a faccio, ma di tu un chirurgo vascolare, invece mi danno da due più in chivi. Ha già telefonato a Rugupe, ha già ciappato Macumari, barra di 15, l'appuntamento. Andi in chivi, il vostro va, la chissà dottoressa, e così vi rubuto un referto. Abbiamo preso, mi sta facendo mia moglie che c'è andata, comunque c'è anche, è anche vicino, prende l'autobus, si fa un giro, buono, c'è anche vicino a Sassari, non è che... Sì, io ando in macchina, ando, devo essere all'8:40 in Chivi, mi hanno detto andare alle 8:30, vado alle 8:30, una volta che sono lì alle 8:30, gli do l'impegnativa e mi vado in idù. È un bel manno mi, sono tutti specialisti lì. Sì. Anche lì devo andare da chissà dottoressa Lettori che mi abbia avviso, però vuole un esame particolare questo chirurgo che mi ha visto, capito? Per affari di là anche cazzo, faccio un'anca più grossa dell'altra a chi mi soffieggia. Spero di non andare mai, così speriamo tutti, vediamo un po' adesso come si piazza la situazione, perché io ho fatto anche l'angiottacchi per la circolazione del sangue e mi hanno guardato solo le arterie La circolazione venosa non me l'hanno guardata e il chirurgo vascolare vuole vedere anche quella venosa. E quindi devo vagissa. Ah, va, vi dico, cosa mi dici da di 15? Mi ha detto, lei deve camminare 2 ore, quando gli viene il dolore, si ferma, come gli fa a tornare a camminare? E a via base. Natali, ui, ce l'avevo già registrato, c'è scritto Marugio per notazione. E quello che ti avevo dato io mi sembra che... Make up. Quindi adesso mi sa quella ricetta e mi pare che scauzza che per esempio un be, inizia l'anno, quindi adesso chiamo domani la dottoressa e vi faccio mandare un'altra impegnativa. Sì, infatti, fatti fare impegnativa, telefonai già a Eddie, ti risponde la segretaria, ti rispondi, gli dai il numero l'impegnativa e così ti dà l'appuntamento e andi appunto sicuro. E quindi non pago nulla perché è convenzionato e io praticamente sono esente. Ehi, se c'è la C03 c'hai tu come me. Scappa. Non pago un cavolo, vai, tranquillo, tu. E io, e domani chiamo, domani per dire chiamo, dai. E così faccio dell'appuntamento. E noi siamo esenti. E devo fare anche le clodopole, devo fare. E quello venire a sacciare rubati. Ma cardio lo devi fare. Color Doppler cardio, quello lì devi fare. Senza cardio. Dipende da dove lo devi fare, perché a Platamona li fanno gli eco Doppler. Io ne devo fare uno, ne devo fare a Platamona il giorno 15. E io l'avevo fatto un attacco a sessato, me ne è mandato, e poi poco d'ora me ne è mandato, poi boh, adesso lo farò pure quest'anno. Quello che fa il collo a me, praticamente, invece ne è le placche bianche, non male sul chiepo. Ah, ho capito. Fatti fare impegnativa e gli dici che vuoi va a Platamona. Lo fanno anche a Platamona. Ma devo richiamare a Platamona però. No, il cupi devi chiamare per queste cose qua. Mai? Ok. Vabbè, perché mi ricupo che c'è 3 euro al telefono, vado via Tempio e posso prima. O se no andi in via Tempio e gli dici che va a Platamona. Quello lì te lo fa la dottoressa De Turi, quella che lo deve fare a me. E cappa, mi prendi tanto che devo fare una piccola cosettina qua. E cappa, e lì già, già te lo fa. Uia, cappa. Eia, lui già me lo può fare l'eco Doppler a me, però è a pagamento, ma la giù ti raccuglia. E mi ha detto, già gli faccio lo sconto, però prima provi al cupa, che vuol dire altro un gonto, non ha compreso? Il suo chirurgo vascolare, ma lo studia con tu gioio, però ti va a demagare i chili, hai capito? Io volevo fare una visita a mio figlio per le anni. L'avrebbero fatto perché per gli arti inferiori io lo devo fare e te lo fanno lì, c'è la dottoressa De Turi che te lo fa. No, per il bambino non lo faccio fare. Ma può darsi, comunque la di 15 io devo pagare subito più agli arti inferiori per la circolazione venosa, la devo fare. Ma l'hai detto a Platamona, non ce l'avevi arrecato. Lo so, vuol dire che quello ci vuole uno specifico proprio per i bambini. Sì, era una visita specifica, ma non una visita, ma una radiografia specifica. Sì, lo so, purtroppo. Cosa vuoi che ti dica? Se mi manai salienti, cosa vuoi ti dica tu? Non devo portare lì. Per il bambino non mi sa bambino che spende soldi. Beh, ci mancherebbe altro. Poi per i bambini è una cosa più delicata, e vuol dire che voleva un dottore specifico, uno specialista specifico, e per quello ti hanno mandato lì. È l'unico che abbiamo trovato, Vuol dire che la Zorughisse è Sassari. Ma c'è qua quale tipo di cosa lì? Cambri nessuno. Ma l'ha detto Rico proprio a chi devo rispondere. È un casino, Ma tu pensa che a me mi hanno fatto fare esame di Rusango, che sono ripidari di vasini. Non mi l'ha voluto fare nessuno, allora se vuol dire nessuno. Che per farmi rifare mi sono potuto ammazzare. Ma ecco, sai quelle fanno anche con la pedoccia? Quelle che dovevo fare io non me le faceva nessuno. Solo all'ospedale. Capito? Perché non vado io a farmi fare tutte le analisi del sangue quando devo fare la visita diabetologica? Vado lì, Viale Umberto, so che andato a Rolati Dozzi, so che andato in un sacco di luoghi, i Lipidari, a Sant'Ubrido, nulla, solo al Palazzo Rosa le facevano quelle analisi lì, perché erano analisi particolari. E non li va via, ne manca pagamento, non le faceva nessuno. Casino è curato. Poi io devo lasciare Bianco. Se c'è Tonino, continua a Tonino. Tonino deve essere controllando a che cosa. Vabbè dai, ciao tu, buon proseguo, buon tutto. Franco, ci sei? Il suo caffè mi va di troppo lungo. Ehi, era un caffè, mi ha toccato durarmi la fama. Chi ha già lagato questa cuzzina? C'è una scena, sì. Non mi sono accordato, non mi sono dimenticato. E vabbè, l'ho rifatto, c'è la biglia in culo. Chi c'è la vecchiaia, mi fra? La vecchiaia, mi, è carogna, Chi è, Franco? Ma la sono dimenticato, l'ho acceso come...